24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 35 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori che saranno interessati, spero, a questo. La manna, la definisce così una giornalista delle Figaro, la manna di 500 miliardi che dovrebbe arrivare dall'Europa. Ed è a questo che è dedicata la seconda pagina e la terza pagina interamente delle Figaro, perché il quotidiano francese ovviamente mette in risalto il ruolo che la Francia ha avuto insieme alla Germania nel dare il via libera a quello che dovrebbe essere un finanziamento, non un prestito, questo è importante, sia pure di 500 miliardi, non di 1000 come si sarebbe voluto, ma insomma è interessante notare che tutti lo considerano un primo passo, così l'ha definito anche il premier spagnolo Sanchez. E soprattutto si mette in luce ovviamente sulle Figaro il ruolo del rilancio dell'asse franco-tedesco. È un punto molto importante. Adesso bisognerà vedere quali condizioni ci saranno, perché è ovvio che questi soldi arriveranno all'Italia, alla Francia, alla Spagna, ma in contropartita ci saranno richieste delle riforme. Mi sembra che comunque l'atteggiamento, sempre per tornare al quotidiano francese, sia quello di un cauto ottimismo, anche se anche loro non si nascondono il fatto che poi sono i 27 paesi europei a dover dare il via libera e, come abbiamo visto, c'è già qualche tensione. Sicuramente. Diciamo che l'elemento più importante di tutto questo è sostanzialmente l'apertura di Angela Merkel a una condivisione del debito, a un debito condiviso, che è esattamente il tema del quale si è dibattuto molto nei giorni scorsi. Non a caso una cauta soddisfazione filtra anche dall'Italia, da Palazzo Chigi, come abbiamo raccontato. Insomma, vedremo come andranno le cose, se si riuscirà ad andare oltre queste risorse, perché l'Italia puntava a 1.000-1.500 miliardi più o meno. E comunque è importante vedere anche che tipo di come ci verrà chiesto di spenderlo, e su questo francamente, adesso poi ne parleremo con la ministra Dadone, su questo francamente noi italiani abbiamo anche bisogno di sentircelo dire come si spendono i soldi, perché scandalo dei fondi europei che non riusciamo a spendere perché non siamo capaci di interloquire anche con Bruxelles, o non siamo capaci di preparare nel modo opportuno i piani, è storia annosa di decenni. Sì, decisamente. Fabiana Dadone, ministro della Pubblica Amministrazione, buongiorno e benvenuta. Eccoci, Dadone, bentornata ai nostri microfoni. Maria, prego, inizia tu, vai. Sì, volevo proprio cominciare da qua. Io so che proprio ieri, Ministro, lei ha annunciato il riavvio dei concorsi pubblici, il che è una buona notizia per tanti italiani giovani che potrebbero appunto ringiovanire le fila della pubblica amministrazione. Le chiedo, per quali figure sono previste questi concorsi? E poiché non è un segreto che uno dei problemi per cui noi in Italia non riusciamo a spendere, anche a livello locale, non solo nazionale, anche a livello regionale, i fondi europei spesso, dipende dal fatto che c'è una difficoltà, una barriera linguistica. La nostra burocrazia spesso non parla inglese e a Bruxelles è quella la lingua che si adopera. Dunque le chiedo quali figure saranno interessate da questi concorsi e quali caratteristiche dovranno avere, tra le quali appunto si spera anche una ottima conoscenza della lingua inglese. Assolutamente anche opportuna. Diciamo che i concorsi che partiranno nelle prossime settimane riguardano principalmente le figure dei funzionari. Si riparte, ho voluto fare un video per tranquillizzare anche le persone che mi hanno posto molte domande in queste settimane, con i concorsi che erano rimasti in sospeso, per esempio a quello dei beni culturali o quello del Ministero della Giustizia, di cui era stata fatta la preselettiva, uno nel mese di ottobre 2019, l'altro in febbraio di quest'anno ripartiranno con le prove scritte, poi partiranno proprio i nuovi bandi per le figure proprio di funzionari, su quali chiederemo soprattutto quelli gestiti da funzione pubblica, oltre alle competenze che abbiamo chiesto, diciamo così, le competenze hard che abbiamo chiesto finora, ovvero sia che si conosca il merito delle materie, quindi il classico diritto amministrativo, che si possa anche fare una valutazione sulle soft skills che nell'ambito privato vengono comunemente richieste e che servono proprio per avere una flessibilità mentale di un certo tipo, che si possano valutare arrivati in fase di reale parità di condizioni. La questione in cui invece lei fa riferimento è quella della classe dirigenziale, che deve avere un tipo di selezione diversa e dal mio punto di vista rafforzato. Su questo in Italia abbiamo la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, che effettivamente è uno strumento molto buono per selezionare i dirigenti pubblici, ma che non è stato mai rafforzato a sufficienza come canale di selezione. Io per esempio porto ad esempio il fatto che nella storia ne sono stati fatti 7 di corsi concorsi, che sono quelli funzionali a preparare gli alti dirigenti dei ministeri, che sono poi quelli che fanno questo tipo di lavori e di contatti in particolare con l'Europa. Nell'ultimo decreto fatto abbiamo inserito una norma per velocizzare l'8° corso concorso per 315 posti, ma prima di questo si è concluso il 7° e prima ancora c'è stato un buco di 5 anni per il quale non si è proprio fatto un concorso di questo tipo, che invece richiede una preparazione. Le faccio una domanda semplice, Ministro. Prego. Ministro, mi scusi. No, le nuove assunzioni verranno fatte tenuto conto dei criteri di novità che è assolutamente necessario avere, cioè dirigenti in grado di interloquire con Bruxelles, di difendere le posizioni italiane, di perdere meno tempo, avere la questione tempo come un benchmark, perché purtroppo il tempo è denaro, è banale dirlo, ma è così, e se noi ci perdiamo, ripeto, i fondi europei, e anche perché di tempo se ne perde molto. Quindi le chiedo, mi faccio un identikit se può in 3 secondi del dirigente del futuro per la pubblica amministrazione. Il tempo, quali denaro, doti deve avere? Io concordo con lei. Assolutamente deve avere innanzitutto capacità manageriale, perché molto spesso ci troviamo di fronte ad una classe dirigente che non ha capacità di gestire il personale che ha sotto di sé, e questo fa perdere un sacco di tempo. Deve avere delle conoscenze delle lingue di un certo tipo, deve avere una flessibilità, una capacità di problem solving, una capacità di lavorare anche sotto stress pesante, perché molto spesso ci ritroviamo a dover correre dietro a dei fascicoli che devono arrivare a conclusione in brevissimo tempo, e se non abbiamo una classe dirigente che è all'altezza di riuscire a trovare la sintesi e la soluzione in tempi brevissimi, è chiaro che perdiamo sempre il treno e le possibilità di riuscire non solo ad avere i fondi europei, ma anche di sanare delle situazioni proprio grazie alla capacità manageriale del dirigente. Quindi io penso proprio al dirigente pubblico un po' più nell'ottica del dirigente privato, pur con le caratteristiche che deve avere l'ambito pubblico, che sono dettate da peculiarità diverse. Io di questo non però, mi dimentico, però Ministro, il dirigente privato quando non funziona può essere licenziato, e quindi insomma mettere in piedi una struttura nella quale far funzionare un dirigente pubblico e farlo funzionare come un dirigente privato è più complicato quando sicuramente è più complicato. È anche una questione culturale di concezione del lavoro, che nel pubblico io lo penso per esempio legato allo smart working, cioè finora la concezione del lavoro all'interno del pubblico è stato di essere presente 8 ore in ufficio. Dobbiamo ribaltare l'ottica, cioè noi dobbiamo arrivare alla produzione del risultato, non tanto alla presenza fisica, perché a me non interessa che la persona rimanga tante ore all'interno anche del mio ministero. Quello che mi interessa è che quando chiedo un determinato fascicolo o la risoluzione di una questione arrivi in tempi brevi sulla scrivania. Questa è sì. Bisogna proprio ribaltare l'ottica culturale, sì, però, di approccio però, del lavoro. Però ripeto come si fa in modo che i dirigenti poi facciano funzionare la macchina in questa maniera, da donna? Guardi, secondo me vanno anche stimolati, nel senso che la pubblica amministrazione fino a, insomma, quando ho preso questo incarico a settembre, è sempre stata descritta come un carrozzone non funzionante, pieno di persone che venivano descritte come furbetti del cartellino. In queste settimane però, per esempio, abbiamo chiesto ai dirigenti di riorganizzare il lavoro da remoto, l'abbiamo chiamato smart working, anche se era un lavoro, uno smart working molto di emergenza, quindi con le limitazioni date dalle infrastrutture tecnologiche non perfette e da una fase non di accompagnamento che sarebbe servita, ma di colpo, di mettere tutti in lavoro da remoto. E se anche la funzione pubblica svolge, come ha fatto in queste settimane, il lavoro di accompagnamento con delle direttive, con delle circolari e affianca le amministrazioni che molto spesso negli anni si sono sentite anche un po' abbandonate, si sono viste calare sì delle norme sulla testa, ma senza avere delle circolari, delle direttive che poi gli spiegassero come applicarle effettivamente, come riuscire a dire quanti potessero entrare in ufficio, come fare le turnazioni, come riuscire ad individuare l'ottica del risultato rispetto a quella della presenza fisica. In queste settimane i servizi, anche se erano chiaramente rallentati anche per via del lockdown del paese, la pubblica amministrazione ha continuato a garantire. Ministro, a proposito di lavoro remoto per i dipendenti pubblici, sia dei ministeri che degli enti locali, a Roma, se una parte del lavoro si facesse da remoto, questo significherebbe disinnescare una parte del traffico cittadino, okay, e anche forse un grande risparmio per lo Stato, perché diverse inchieste giudiziarie negli anni scorsi misero in luce quanto lo Stato pagasse per l'affitto dei palazzi in centro, che ovviamente se la gente ci fosse di meno negli uffici in parte servirebbero meno. Avete fatto un calcolo a spanne di quanto si potrebbe risparmiare e vi aspettate poi che ci siano ovviamente delle reazioni da parte di chi invece sull'affitto da decenni allo Stato ha giustamente, diciamo, proiettato la sua vita di imprenditore, no? Va tenuto conto anche questo. Avete fatto una specie di scenario? Allora, io innanzitutto parto dalla raccolta dati. Non nascondo che funzione pubblica non ha gli open data di tutte le amministrazioni d'Italia, delle amministrazioni centrali, per cui questo è un problema chiaramente che viene al pettine oggi come nodo, ma è un nodo storico di cui parlo fin da inizio mandato, per cui non avendo una raccolta dati è difficile riuscire a fare delle quantificazioni precise. Col vice ministro Castelli stiamo lavorando invece insieme al MEF per riuscire a quantificare quali potrebbero essere i risparmi, oltre a quelli più evidenti legati al fatto che se non faccio venire il lavoratore sempre in ufficio è chiaro che avrò dei risparmi di bollette, di gestione delle sedi, sicuramente anche di decongestionamento del traffico e quindi anche di manutenzione degli edifici. Io non mi sono preoccupata, devo dire, molto delle reazioni di chi vive, come lei direbbe, sull'affitto delle strutture, perché penso che la pubblica amministrazione debba gestire le risorse che ha nella maniera più funzionale possibile a garantire un servizio migliore. Io vedo che il lavoro agile nel privato, dalle relazioni e dai dati che vengono forniti, aumenta la produttività del 15%, e a me quello che interessa è che la pubblica amministrazione aumenti la produttività e fornisca un servizio migliore in questa fase, per cui non mi preoccuperei tanto di quanto andiamo ad inficiare sulla riduzione dei contratti d'affitto, mi interessa quanto riusciamo a risparmiare sì per riuscire a investire in un servizio però migliore. Su questo è chiaro, col MES stiamo lavorando, diciamo che però in questa settimana tutto il lavoro è stato assorbito dal decreto rilancio che ha comportato anche a livello... A proposito, quando arriva in Gazzetta Ufficiale? Ministro? Penso oggi. Ah, oggi arriva in Gazzetta Ufficiale? No, perché venerdì abbiamo avuto il ministro Patuanelli che ci ha detto tra sabato e domenica arriva in Gazzetta Ufficiale. Oggi abbiamo lei che ci dice oggi, quindi aspettiamo. Anche perché oggi aspettiamo, non è più domenica, vediamo. Quindi anche volendo allora, ottenere Patuanelli. Ministra, a proposito del decreto rilancio. Il decreto rilancio si va ad aggiungere al Cura Italia, a tutti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle ordinanze regionali, alle le ordinanze dei sindaci. Stiamo creando un corpus normativo su questo Covid-19 che non solo è mostruoso, ma rischia di paralizzare l'attività esattamente della pubblica amministrazione, perché in una confusione di norme, come sappiamo perfettamente, a volte i dipendenti pubblici preferiscono, o i dirigenti, anche i dirigenti pubblici preferiscono non agire, perché il rischio di anche di un'indagine penale e di cose di questo genere è sempre in agguato. Avete intenzione di rimettere ordine in tutto questo? Perché insomma, se noi cittadini non ne capiamo quasi più nulla, e immagino che anche i dipendenti pubblici abbiano qualche difficoltà. È chiaro che questa emergenza ha richiesto l'emissione di norme speciali, quindi motivate dalla decretazione d'urgenza, e ingenti e notevoli. E abbiamo tentato di dare un corpo che fosse omogeneo, poi è chiaro che si sono accavallate in una prima fase le ordinanze regionali, questo è un potere che hanno proprio per titolo quinto le singole regioni, che poi abbiamo rimesso all'interno del cappello normativo del decreto, proprio per dire alle regioni che si stava dando un'idea molto confusionaria all'interno del paese, per cui il governo dava le direttive e loro all'interno di quelle potevano muoversi per le specificità sui territori. È chiaro che tutto questo discorso dell'affollamento normativo di questa fase è legato all'emergenza, quindi tutte le norme hanno una cadenza che è legata a questa emergenza, quindi poi si potrà anche, dal mio punto di vista, decidere che cosa mantenere, se un esperimento positivo successivamente, quindi togliere la limitazione legata al dato proprio temporale del 31 luglio, quindi dell'emergenza. Penso per esempio alle misure di semplificazione sulle procedure concorsuali, ma che tutto è collegato al grande discorso della semplificazione, di cui tutti parliamo tanto, tantissimo. Non parlo solo di ministeri, ma anche questa semplificazione. Ma infatti in alcuni di questi decreti alcune misure di semplificazione già sono state fatte. Io penso per esempio nel rilancio abbiamo introdotto, io ho insistito molto per introdurre una norma che riguardasse il principio del one sound, la cosiddetta interoperabilità delle banche dati, perché io lo dico sempre, per me la più grande misura di semplificazione, al di là delle singole procedure specifiche, è che i cittadini e le imprese non debbano dare alla pubblica amministrazione più di una volta un dato che la pubblica amministrazione ha già in possesso. Bisogna adesso lavorare su tutta la fase di back office, cioè cittadini e imprese mi portano una volta sa da quanto la sentiamo questa cosa, Ministra? Lo so benissimo, però sa anche che le situazioni di emergenza hanno messo, secondo me, l'Italia in queste situazioni di fronte ad una capacità diversa di reazione. Io sento anche parlare certo, di smart working sperimentale da... Ministro, se non ne approfittiamo ora, cioè se oggi non riusciamo a fare quello che non siamo riusciti a fare negli ultimi 20 anni, sprechiamo un'occasione, e purtroppo anche non sappiamo fare uso di questa tragedia che si è sviluppata nei mesi. Senta, le voglio chiedere, visto che lei è il primo ministro che ospitiamo subito dopo la decisione dell'asse franco-tedesco Merkel e Macron, che hanno proposto di fare un debito comune per la ripresa europea, un debito inserito nel bilancio. Ecco, le chiedo una sua valutazione e soprattutto di spiegare anche ai nostri ascoltatori perché è un passo positivo, l'hanno definito così sia il Premier Conte che quello spagnolo Sanchez, che ovviamente anche Macron. Perché è un passo positivo? Perché non è un prestito ma è un debito. Possiamo far capire ai nostri ascoltatori di che si tratta? Certo, perché ci dà la possibilità effettivamente di fare un debito comune anziché di ottenere un prestito e poi di dover ridare i soldi indietro, quindi è chiaro che ci permette di fare il cosiddetto indebitamento, quello che avevamo chiesto con molta forza nelle passate settimane. Penso che sia un passo abbastanza positivo, l'avevamo sollecitato più volte all'Europa anche nell'ottica di dimostrare che fosse un'Unione Europea effettiva, non soltanto a parole, perché nel momento in cui l'emergenza ha toccato tutti gli Stati europei o la reazione era comune e forte in questo momento per permettere l'indebitamento e per permettere a tutti di riuscire a uscire dalla situazione di crisi, altrimenti sarebbe stato semplicemente uno strumento di prestito europeo che avrebbe messo in ginocchio ulteriormente i paesi. Quindi la prima risposta è stata positiva. Ora insomma valutiamo poi ogni passo con la dovuta attenzione anche nelle prossime settimane. Grazie Fabiana Dadone, Ministra della Pubblica Amministrazione, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro. 349-238-6666 per i vostri sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci all'800-24-0024. Ci ritroviamo tra un attimo con Beppe Sale, il sindaco di Milano. Mattino. Buongiorno a Beppe Sala, sindaco di Milano. Sindaco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Eccoci qua. Com'è andata questa prima giornata di fase 2? Come l'è sembrata? Beh, sufficientemente ordinata, diciamo. Ovviamente ora i nodi vengono al pettine. La parte più commerciale relativa, diciamo, i negozi, l'abbigliamento, mi pare che abbiano cominciato a lavorare bene. La difficoltà stava certamente nei ristoranti, e questi sono, con le regole che devono applicare, sono in grandissima difficoltà, e quindi è la parte che farà più fatica. Riguardo la mobilità, bene il trasporto pubblico, noi stiamo puntando su la prova di un cambiamento nel sistema di mobilità, stiamo favorendo le biciclette. Milano non è una città grande, è in piano, e quindi vogliamo usare questo periodo, non vogliamo solo subirlo, vogliamo usare questo periodo per sperimentare nuove modalità. Questo rende felici tanti e ovviamente scatena un po' di polemiche dagli automobilisti, io li capisco, ma ripeto, le grandi città del mondo stanno andando in quella direzione, Milano ci deve provare. Usiamo questo periodo come un po' un test. Maria, prego. Prendo a prestito una bella frase che Gianni De Gennaro, presidente di Leonardo, cita nell'intervista che ha dato al Sole 24 Ore a firma di Paolo Bricco, e dice che tutto il suo lavoro di questi anni di presidenza di Leonardo è stato proiettato nel prevenire, perché è quella la vera vittoria, cercare di prevenire i problemi. Alla luce di questi drammatici mesi che ha vissuto come sindaco di Milano, qual è la sua prima preoccupazione di prevenzione? Cioè, si concentrerà su cercare di prevenire qualche effetto dannoso sul fronte economico, o sull'ipotesi, che tutti ci auguriamo non si verifichi, di una nuova ondata di coronavirus? Qual è la sua prevenzione numero uno? Ma guardi, dal punto di vista sanitario, come lei sa, la responsabilità del sindaco è molto limitata. Qui ci sta una delle bizzarrie delle norme italiane. In teoria il sindaco è responsabile della salute dei suoi cittadini, nella pratica non ha nessuna leva. Come abbiamo capito tutti in questa fase, la responsabilità è della regione. Quindi io di quello collaboro con la regione, a volte ci scontriamo, a volte dibattiamo, ma le leve le ha la regione. Qual è la mia preoccupazione? La mia preoccupazione è che, come ampiamente previsto, ma ora stiamo toccando con mano, qui andiamo verso una crisi economica e sociale profonda, e quindi cominceranno le manifestazioni in piazza, ma al di là delle manifestazioni comincia la difficoltà di tante tante famiglie. La mia opera si concentrerà lì, e ne stiamo discutendo col governo. Sa, Milano oggi è una città che potrebbe tranquillamente indebitarsi per far fronte alle necessità dei suoi cittadini, ma le regole non lo permettono, e le regole a mio avviso vanno cambiate. Cioè, io non voglio toccare un servizio che sia uno, perché abbiamo vincoli di bilancio, perché in questo momento non vuole, è vuole avere la possibilità giusto di emettere bond milanesi. No, queste sono, guardi, non c'è da emettere nessun bond. Cioè, il problema è vero, noi abbiamo un debito che prima dell'ingresso in questa pandemia addirittura io lo stavo riducendo, l'avevo ridotto del 10%, ma abbiamo un comune come Milano ha 3 miliardi e 3 di debito, ma ha un patrimonio tra le partecipazioni in A2A, in SEA, negli immobili che vale anche di più, quindi noi potremmo prendere debito con estrema facilità, ma le regole in Italia permettono alle amministrazioni di prendere debito per fare investimenti e non per la spesa corrente. Ora, io non voglio tagliare spesa corrente, non voglio tagliare i servizi di chi è in difficoltà, perché è giusto e per riconoscenza nei confronti dei milanesi. Se Milano era diventata quello che era, e adesso bisogna riprovarci, sì, la politica avrà fatto la sua parte, ma la riconoscenza va ai cittadini che hanno creato quella Milano che conoscevamo. Maria. Penso a tutto quello che era Milano fino ai primi di marzo, la città dove tutti volevano andare a vivere in Italia, ma non solo, dove si stavano facendo investimenti massicci sul fronte dell'edilizia degli uffici, dove trovare un appartamento nel centro storico da acquistare era complicatissimo perché ti chiedevano cifre stellari. Quella era la fotografia ai primi di marzo. Stiamo sul mercato immobiliare. Sindaco, lei che cosa pensa che succederà? Maria, lei ha fotografato un po' la situazione. Milano era una città e lo vorrei anche tornare a essere, dalle grandi opportunità, dove era sufficientemente facile trovare un lavoro. Noi avevamo una disoccupazione solo al 6%, per intenderci, ma è costosa. Finché le cose funzionano, tra quello che uno porta a casa e quello che uno spende, un bilancio lo si trova. Ora il problema invece sta nel fatto che, per esempio, gli acquisti, ma gli affitti, e lei ha citato il centro, ma il vero problema io lo sento con i tanti ragazzi che non ce la fanno con gli affitti. Quindi da un lato bisognerà rapidamente trovare nuove ragioni di lavoro e di reddito. Dall'altro però io penso che i prezzi sia delle vendite che degli affitti delle case scenderanno, fletteranno, perché non ce la si fa. Ma pensi anche a tutte le attività commerciali, negozi, ristoranti. Cioè, in questo momento è chiaro che, avendo ridotto così significativamente il reddito, non possono pagare questi affitti. Aveva chiesto, sindaco, risposte tanto al presidente della regione Fontana quanto al ministro Speranza sulla questione dei test sierologici. Le ha avute queste risposte? Non le ha avute? Siamo ancora un po' in fase di comprensione di cosa realisticamente si può fare. Ah. È chiaro che io mi rendo perfettamente conto che ci sono differenze di vedute nel mondo politico e anche scientifico sull'utilità dei test, soprattutto, non certo dei tamponi. Però osservo che una realtà come Wuhan, che noi citiamo come esempio ed è il nostro vero benchmark, e quindi la realtà cinese, sta facendo in questi giorni 11 milioni di test, perché 11 milioni sono gli abitanti di Wuhan. Allora, c'è una richiesta forte di questi test. È chiaro che bisogna accettare il limite che hanno, e può darsi che a volte non siano precisi, ma nella maggior parte lo sono e danno sicuramente delle indicazioni di tendenza. Quindi io su questo tema di disponibilità di tamponi e test continuerò. Vi faccio proprio un piccolo esempio, sì, per capirci. Ora il governo dice i comuni possono riaprire i centri diurni disabili. Guardi, sono dal punto di vista della dimensione una piccola cosa, ma sono importantissimi. Noi abbiamo circa 1000 disabili che di giorno portiamo in questi centri per sgravare le famiglie. Ora, come potete immaginare, a un disabile non è sempre semplice dire devi portare mascherina, devi stare a distanza. Alcuni non riescono nemmeno a capire, poverini, no? E questo è il problema dei disabili. E gli assistenti che ci lavorano quindi sono più preoccupati. Io sto dicendo, io li apro, ma dovete garantirmi tamponi continui e test. È sbagliato? Capisce che a volte sono anche sistemi che possono mettere in sicurezza. Maria? Milano è una delle città italiane col più alto tasso di occupazione femminile, un tasso che non ha confronti con altre aree del paese. Come tutti sappiamo, il fatto che le scuole siano rimaste chiuse per ogni ordine e grado fino ad oggi, insomma, ha creato notevoli problemi alle mamme lavoratrici. So che il Comune di Milano sta lavorando a una summer school per i bambini. Vi siete posti anche il problema, ovviamente, delle garanzie sanitarie. Ha fatto un certo scalpore che in Francia, dove per volontà di Macron, perché il ministro dell'istruzione Blanquer era molto più scettico, ma insomma le scuole le hanno riaperte, e poi 70 su 40.000, per carità, delle scuole elementari si sono dovute chiudere perché c'erano stati dei casi di Covid-19, il ministro ha detto riferiti a settimane fa, però insomma le hanno chiuse. Quindi aprite queste summer school per i bambini, per dare anche la possibilità ai genitori che lavorano di lavorare, appunto, ma come vi state organizzando? Noi intendiamo aprire dal 15 giugno, quindi quando finiscono le scuole, e stiamo analizzando giusto questo, perché guardi, per esempio la questione della sanificazione è una questione non irrilevante. Oggi quello che ci dice la scienza, è anche, devo dire, i medici a Milano che più a mio avviso ci hanno azzeccato, è che la carica virale è abbastanza bassa e quindi si è ridotta la possibilità di trasmissione. Però, per esempio, su questo apparentemente banale tema della sanificazione ci si divide. È necessario farlo, in che modo farlo, ogni quanto farlo, e questo è un aspetto. L'altro aspetto è il tema delle protezioni personali, però io credo che se si userà soprattutto di più gli spazi aperti, se si metterà in campo alla milanese una collaborazione tra il comune, gli oratori, le associazioni, ecco, noi dovremmo puntare non a ospitare ovviamente tutti i bambini milanesi, ma i bambini il cui padre e madre sono al lavoro. Io penso che ce lo faremo, stiamo ovviamente con i medici mettendo a punto protocollo che garantisca le famiglie. E ci è arrivata più di una segnalazione, sindaco, da qualche ascoltatore che ci dice: guardate che ieri nelle zone della cosiddetta movida, magari non proprio i Navigli, però in altre zone, una parola orribile, dovremmo trovare un'altra parola, insomma comunque le zone della movida, così ci capiamo anche con gli ascoltatori, c'era parecchia gente con le mascherine calate, tutti troppo vicini, tavolini troppo vicini, eccetera eccetera. Il comune si sta muovendo in qualche modo per tenere sotto controllo questa situazione, oppure no? Allora io le dico con sincerità come la penso, è chiaro che qui entriamo veramente nella testa della gente, nella psiche della gente, nel senso che ci sono tanti che dicono finalmente si può uscire eccetera eccetera, ci sono i più fragili, i più timorosi che non solo si rintanano in casa ma anche continuano a segnalare, c'è un assembramento di qua, c'è un assembramento di là eccetera eccetera. Sindaco, c'è troppa gente in Corso Garibaldi, sindaco, c'è troppa gente al Parco Nord. Ora la mia risposta è che la gente stia in giro in questo momento è assolutamente naturale, quindi non dobbiamo spaventarsi se c'è molta gente. Il tema è il rispetto delle regole. Non è semplicissimo, è complesso controllare una città da 1.400.000 abitanti e 1.700 chilometri di strade, per fare un esempio, e 25 milioni di metri quadri di verde. A me non piace scaricare la responsabilità sui cittadini, però da questo punto di vista è illusorio pensare che noi si possa correre dietro tutto, a tutti, e non ci sta il guardia e ladri in questo momento. Purtroppo da questo punto di vista bisogna chiamare alla responsabilità del singolo. Poi a volte si interviene, a volte si fa un po' di multe, ne ho parlato anche ieri col prefetto, però non è semplice. Nella stragrande maggioranza io vedo comportamenti virtuosi. Certo, se si va a cercare il comportamento non adeguato, lo si trova anche il comportamento inadeguato. Maria, vai. Maria. Senta, la ministra dell'Interno, la Morgese, da settimane batte e ribatte sul rischio mafie. Noi sappiamo anche per tutta una serie di inchieste che ci sono state che la criminalità organizzata, l'andrangheta, è già da tempo presente nella rete della ristorazione dei bar a Milano. Lei ha contezza del fatto che proprio perché molti hanno difficoltà a riaprire per mancanza appunto di fondi, lei ha contezza di una pressione delle mafie, della criminalità organizzata ulteriore sulla rete commerciale milanese? Al momento no, ma nel dialogo con prefetto e questore questo è uno dei punti di attenzione, nel senso che ovviamente la mafia sta nei campi nella raccolta al sud dei pomodori, ma sta anche nelle grandi città, quindi certamente siamo molto attenti su questo tema. Al momento non abbiamo segnali che ci possono far dire che la situazione è peggiorata, però certamente il problema c'è, è inutile negarlo. Chi ha ancora il coraggio di sostenere, di pensare che la mafia non ci sia a Milano al nord, è un folle, è chiaro che c'è, va fronteggiata. Dovendo dare un giudizio sulla gestione da parte del governo di questa emergenza Covid-19, ho visto negli ultimi giorni un po', no, crescere un po' la tensione, sindaco. Come la vede? Che impressione ha? Guardi, io penso che sia assolutamente normale. Lo dicevo nei giorni precedenti. Riguardo all'azione politica del governo e della politica in generale, io vedo tre fasi. La prima... Anche qua tre fasi. No, prego. No, ma guardi, la prima si è esaurita e speriamo che rimanga esaurita, cioè è quella in cui la gente sta in casa, tu da politico dici fai questo, non fare questo, e scusi, dire che è più facile suona irrispettoso rispetto a quello che è successo, ma oggettivamente gli altri stanno in casa, quindi un po' lo è. Andiamo nella seconda fase adesso. La seconda fase è in cui il bisogno esplode, no? E quindi in cui tutti cominciano a fare i conti in tasca, in cui tutti capiscono che sì, hanno riaperto, si è riaperto, ma non è che la gente torna esattamente con le abitudini di acquisto di prima, per esempio. E quindi questa comincia a essere la fase del dibattito, delle polemiche, della discussione. È chiaro che come la fai la sbagli, però bisogna cercare di farla e il nostro governo sta cercando di fare quello che può. Un'azione valida quella di governo complessivamente, Sara? Quindi, così? Un'azione valida quella del governo complessivamente? Quindi. Ma al momento secondo me sì. E devo dire che anche Conte, per quello che ci aspettavamo, e quindi per l'esperienza che ha dovuto maturare in frettissima, non si è mosso male. La mia preoccupazione è quello che succederà un pochettino più avanti. In particolare io segnalo che il mese critico per l'Italia sarà ottobre, perché certamente entriamo nel periodo, il famoso autunno caldo italiano, ma ottobre è anche il momento in cui è possibile che le agenzie di rating facciano un downgrade al nostro paese, quindi aumentano, esplode lo spread, aumentano i tassi di interesse, insomma il momento difficilissimo sarà quello. Per cui io mi sono permesso nei giorni scorsi di dire, se dovessi dare un consiglio al Presidente Conte, posto che ad oggi, al di là di tutte le chiacchiere, non vedo grandi alternative a questo governo, ecco, però deve rinforzare la sua struttura, il suo sistema, e anche qua faccio due esempi. In primis la collaborazione tra tecnici e politici funziona per un breve periodo, e ve lo dice uno che ha fatto, per così dire, il tecnico, cioè il manager per molti anni, adesso fa il politico. Sono due linguaggi diversi, due modi diversi, io ho dovuto adattarmi e ne sono contento. Il secondo, non voglio apparire irrispettoso nei confronti di nessuno, non è che la compagine ministeriale non possa essere rivista, cioè qui si tratta... Quindi ci vorrebbe un rimpasto? Ci vorrebbe un Ma io rimpasto, non lo chiamerei sindaco? Neanche tanto rimpasto. Diciamo, io dico, chiedo al Presidente Conte di fare una riflessione di quando il vento diventerà veramente forte, quando la difficoltà sarà enorme, se non abbiamo... ha bisogno di avere veramente i migliori italiani al suo fianco, perché la situazione... Dobbiamo chiudere. Meglio così, guardi. Grazie, sindaco, grazie. Maria, a domani, 8:20, ciao Maria.